modo di cominciare. Magari c'è gente che dorme o che si sta svegliando per andare a lavorare. Calma, ragazzi. Lo so, siamo la radio emergente. Emerge la radio. Questa è Samarcanda Digital Network. Vedete però strilli, Va bene, aggiustiamo i volumi. Chi è che parla? Pronto? Sono io, perché non è? La ricordate fatta da Cab Calloway, questa qui? No? Beh, l'ha fatta pure lui, no? Giuro, l'ho sentito io. Veramente, Samarcanda Digital Network sta trasmettendo i Bad Manners. Ci vuole un po' di adrenalina la mattina, anche la sera, ma anche la notte. Adesso è mattina, notte, sera, pomeriggio, che cosa è? È la radio. La radio è sempre. California, California. Sì, però se piove non puoi mandare in onda una canzone che va bene con il sole, no? Se c'è il sole non puoi mandare in onda una canzone che piove. Io volevo soltanto dire che siete capitati su una delle più belle radio che c'è in questo momento a Roma e in tutto il mondo, perché non solo sul DAB, oltre regione ci si ascolta sul canale C9, ma anche in tutto il mondo digitando radiosamarcanda.it. Il computer mi ha tradito, il collegamento del computer mi ha tradito, ma io adesso lo rimetto in, ecco, in lo rimetto, l'ho rimesso? Niente, proprio non va, mi ha tradito, e vabbè, pazienza, io sto cercando di. Ecco qua. Non bisogna toccare i fili, cioè perché tocchi sempre i fili? Capito, qua voglio dire, è una situazione molto difficile, cioè non è un... Ma vuoi farci sentire della musica e smetterla di fare... Sennò poi ti dicono che c'hai un ego, no? Un ego egocentrico, un ego... Ma era tutta una storia per far vedere che sto facendo i volumi, che sto creando il suono, no? Beh, ma chi lo sa, chi lo capisce dall'altra parte? Quanti siete al microfono? Uno è Edith, l'altro? L'altro sono io. Quello della stanza del nonno? Sì, sono io. Ma com'è che sei su questa radio? Perché mi piace. Dai, non è soltanto questo. No, mi piace anche... Soprattutto la gente che c'è in questa radio. Sono tutti ragazzi simpatici, tutti ragazzi volenterosi che... Calma ragazzi, sto parlando! Grandi Bad Manners. Vorrei mettere un pezzettino di musica molto interessante, cioè questo... Bob. Edwidge Molested Trio. Mm-hmm. is like a river all sucked into the ground, and then the hammer came down. Lo, the hammer came down. Many miles did I roam through the ice and through the snow. My horse died on the seventh day. I stumbled into a city where the people tried to kill me, and I ran in shame. Nick Cave. And I came upon a river, and I laid my saddle down, and then the hammer came down. Lo, the hammer song. Down. Non è solo Nick Cave, ci sono anche i The Bad Seeds. Con Blixa Barger. Please, please take me back to my home ground. Lo, the hammer came down. I've been made weak by visions, for many visions did I see all through the night. In the seventh hour an angel came with many snakes in all his hands, and I fled in fright. I pushed off into the river, and the waters came around, and then the hammer came down. Lo, the hammer came down. It did not make a sound, and I said, please, please take me back to river, and the water swelled around, and then the hammer came down. No, the hammer came down. It did not make a sound, and I said, now please, please, take me back to hallowed ground. No, the hammer came down. Digging my cars, stolen my cash, even my $500 super slash. And I just lay there watching the sun. Restiamo su questo album. From the sky. Not wanting to open the letter, but open it anyway and see. Un album degli Bad Seeds. Lover, lover, goodbye. Insieme a Nick Cave. So slowly goes the night. Ecco il titolo, l'ha detto lui. Next to me lies your body, plain like the map of some forbidden land. I trace the ghosts of your bones with my trembling hand. Dark is my night, and darker is my day. Saw the warning signs. How goes it? It goes lonely. It goes slowly. As all slowly goes the night.

siete al cospetto di uno dei più bei dischi usciti nel secolo scorso. Grace, di un certo Jeff Buckley. Se non l'avete nella vostra discografia, dovete assolutamente cercarlo. Buckley, Grace, uno dei più bei dischi che abbia mai comperato. E c'era un signore che prima di entrare negli Style Council faceva parte di un gruppetto, si chiamavano Jam. Ce n'è di musica negli anni Ottanta, eh? Private Hell. The Jam. Drop the cup, you see it smash. Paul Weller quando era nei Jam. E poi c'è un signore che non ho mai frequentato, chissà per quale motivo, forse per il suo aspetto, non lo so. C'è un disco bellissimo che ho scoperto, copertina straordinaria. Il tizio si chiama, qualcuno l'avrà riconosciuto dalla voce, Big City. E questo è Iggy Pop. Jesus, been 20 years. Il brano che ho scelto è Candy. Questa è Samarcanda Digital Network. Io sono Edit e lui è Iggy Pop. Beautiful girl from the north, you burn my heart with a flickering torch. I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life you're haunting me, I loved you so. Candy, candy, candy, I can't let you go. Life is crazy. Real bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. Tutti i vostri amici che questa radio è folle, peggio di Iggy Pop. Veramente non mi ero mai avvicinato molto alla sua musica. Ma può succedere. L'album si chiama Brick by Brick. Candy è il brano, mi è sfuggito il nome di lei che cantava con lui. E quando un album mi comincia a piacere, io sono curioso, voglio sentire anche altre cose da questo album. E un brano che mi è sembrato molto radiofonico è quello che apre l'album, che si chiama Home. Iggy Pop. Don't end up on the street. Home boy, home boy. Everybody needs a home. Home boy, home in paradise down at the mall. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Home, home, everybody really needs a home. Home, home, everybody needs a home. I love my home and my family. Who's gonna love you when the mountain gets steep? We're gonna make it in a Jeep. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, you better think about your home. Un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando dalle automobili, dal letto, mentre stanno mangiando, mentre stanno facendo altre cose. Adesso ce ne andiamo da un'altra parte, in un'altra lingua, dall'altra parte del mare. Un saluto anche a chi sta in mare. Il pezzo che ho scelto è esattamente questo. Loro si chiamano i Dolly, Visi Dolly. Posledni Dani. Noći mi daju moć, noći su more, one su svečane. Haljine raspede. Dođite, dođite, čekam vas ja do. Čeka me moj Bog, čeka me moj Bog. Noću sam vojnik svoj. Čeka me moj Bog. Dođite, dođite, čeka vas ja. No. dolce, morbo, precoce, esatto. Chiama Take Off. Siamo passati dai BC Dolly a un brano particolare. La voce è quella di Madeline Grant. E ai computer, ai miscelatori, è FKJ. Una radio particolare la nostra, è una radio che sta veramente salendo negli ascolti, nel cuore delle persone, perché c'è cuore in quello che facciamo. cuore, amore, anche così, una conoscenza musicale, una qualità in quello che... Non è che facciamo cose particolari, mettiamo solo musica, a volte parliamo anche di gente, di persone. Per esempio adesso io vorrei mandare in onda un brano che non credo che qualcuno avrà mai mandato in onda in una radio con così le problematiche attuali. Questa è la Gen Session da cui è stato tratto il disco... Il brano Luck and Strange. Voi sapete che David Gilmour dei Pink Floyd ha fatto uscire un album molto bello che si chiama Luck and Strange, e questa è una Gen Session. C'era anche il tastierista ancora vivo dei Pink Floyd che si sente all'organo. E da questa registrazione poi è stato tratto il brano che nell'album appunto si chiama Luck and Strange. Sono un bel po' di minuti, rilassatevi, se potete, ma se non potete è uguale. Original Burn Jam, David Gilmour, Luck and Strange. Quello che vi posso dire è che dovete alzare moltissimo il volume della vostra radio. Radio, telefono, computer, dove siete. È un disco registrato in un modo particolare e regge gli altissimi volumi. Thank you. forse una delle ultime registrazioni di Richard Wright. Thank you. sentire la nostra radio in cuffia. C'è una notevole qualità del suono, spesso introvabile in una radio. Beh, a noi piace molto sapere che chi ascolta ama anche la qualità dei suoni. Si stanno guardando i musicisti, che facciamo? Finiamo? C'è qualcun altro che ha qualche cosa da dire? Fare la radio è una cosa straordinaria. Diciamo che il mio momento più adatto è la notte. Io sono cresciuto con Rai Stereo Notte, per cui ho sempre quell'idea di essere su un'ipotetica antenna. E dall'assù, dall'alto, riuscire a guardare la città. E beh, la città dall'alto è una cosa straordinaria, pazzesca, perché all'interno delle finestre che si possono vedere c'è una quantità di vite che sono lì, che ci guardano, dove avviene qualsiasi cosa, e quindi la musica arriva chissà in quali situazioni, no? Gente che sta studiando, gente che sta lavorando, gente che sta facendo il suo lavoro. Gente che magari di notte va a comprare dei cornetti caldi, un bel maritozzo con la panna. Ma se si è di giorno, si può stare anche estesi nella propria stanza. Qualcuno mi ha detto che con i miei programmi ci cucina molto bene, il che mi fa molto piacere, perché sicuramente in qualche modo anch'io sto cercando di cucinare qualcosa. In fondo la musica è fatta anche da una serie di profumi, di ingredienti. Mi piace l'idea di una radio che sia viva, sempre. Che vada sempre in alto. Poi, se c'è un musicista come Steve Ray Vaughan, che ha deciso di regalarci un blues che va in profondità. Questa è Radio Samarcanda. Place I've ever been. Credo che sia arrivato il momento in cui la gente si meriti della musica speciale. Qualcosa sta succedendo nel mondo e la musica segue e sente. Take me with me, Ali. took me right back to the bed. E c'è un carissimo amico, un pianista abruzzese che si chiama Tony Pancella, che ha fatto un bellissimo disco attorniato da giovani straordinari, bravissimi. L'album si chiama In Viaggio. E da questo album ho scelto un brano suo che si chiama Rocco Secco. La cosa bella è che i brani di Tony Pancella vengono suonati anche da altri musicisti americani, a cui anche lui ha reso in questo album un tributo, ma questo è un brano firmato da lui. Tony Pancella. Thank you. Tony Pancella da Samarcanda Digital Network insieme a Edith al microfono con voi naturalmente. Un saluto a tutti coloro che stanno anche per mare. E sì, succede che c'è gente per mare. E in questo caso il nome di questo gruppo c'entra e come? Massive Attack. Weather Storm. stand very still. The thumper shout, they all start to clout. There's no guns in this gentleman's bout. And Georgie moves in on the outside left with a train flying round his head. A terrible demur from our literature nips up the nearest tree. That's why we're in the battle of Epin's boy mixed chain gang fights and liquid Lena with his smashed bottle men. He's lobbing Bob the knob across the gobba with his kisser in a mess. Bob seems under stress, but Jones the jug hits Len right in the mouth. And how they knew, he's still not quite sure, but they couldn't swim out of his flame. Up above the crowd, inside their silver cloud, done proud, the bold and brazen brass, seen darkly through the glass. The butler's got jam on his rails, Roy goes out of the lot with tea from a silver pot, just like any picnic. Enorme capolavoro questo album che si chiamava Selling England by the Pound. I Genesis al completo quasi, perché Phil Collins non può più alzarsi. Stanno preparando qualcosa di interessante, un remix di un altro album doppio che abbiamo amato profondamente, che era The Lamb Lies Down on Broadway, altra creazione di Peter Gabriel e di tutto il gruppo praticamente. Cosa si potrà remixare? Cosa si potrà cambiare? Forse le atmosfere, forse alcuni suoni, chissà. Sono molto curioso perché è un disco che conosco a memoria quasi come questo. The Battle of Epping Forest. So the black cap barons toss a coin to settle the score. Potrebbe fare quasi una lista dei brani che sono scomparsi dalle radio, e questo è uno di quelli scomparsi. E... Questa è la composizione di un certo Bach, non Johann Sebastian, ma Carl Philipp. Philippe Emmanuel Bach. Una sonata per solo flauto, una sonata in la minore. E certo, Peter Gabriel suonava il flauto, quindi mi è venuto in mente, no, questa... Musica classica bisogna stare un po' attenti, perché credevo che fosse finito, invece no. Chiedo scusa. Infatti si è creata una leggera dissonanza. Non c'era il finale, no? Quando si crea una tensione musicale... ho sbagliato. Ma non è sbagliato questo brano, si chiama Use Me. Lei è Esther Phillips. Yeah. Straordinaria, Esther Phillips, Use Me. Incredibile. Quando questo signore va in onda è pazzesco quello che si sente, è veramente straordinario. Allora, ho scoperto un brano molto bello di un signore che si chiama Benny King, ma anche quello che veniva dopo non era male, eh? No. Ogni tanto il computer ci azzecca. Si chiama Cement. The message. Like it was before. Ho scoperto un brano che non conoscevo di un musicista che io ho ascoltato fin da piccolo, che era Ben E. King, che naturalmente ascoltavo Stand By Me. Bellissimo quel 45 giri, l'ho praticamente consumato, però qualcuno molto vicino a me mi ha fatto scoprire questo brano che secondo me è stupendo. E il brano si chiama Supernatural Thing. E una volta quando l'ho mandato in onda mi si è interrotto all'improvviso. Ora ho scoperto che è diviso in due parti. E allora adesso ci ascoltiamo la prima e la seconda parte insieme. Ben E. King, Supernatural Thing. Give me all you got. Benvenuti a tutti. Siete capitati su una radio molto speciale. Una radio che si chiama Samarcanda Digital Network. Io sono Edit. E la nostra cosa speciale è che mandiamo in onda della musica pazzesca. Beh, siamo forti. Siamo forti e stiamo salendo sempre di più nei vostri cuori e nei vostri ascolti. Questo ci fa molto piacere. Il gioco della radio è un gioco che ci piace da sempre, da tanto. Ed è una cosa difficile da costruire. Non è sempre così facile entrare nel cuore delle persone e nella vita delle persone, perché poi a un certo punto, se uno accende la radio, si trova della musica che gli piace, in questo momento qualcuno sta dicendo: perché non stai zitto, fammi sentire questo pezzo, la seconda parte. Lo so, è così. Era solo per ringraziarvi di essere qui. Supernatural Thing. Ringraziamo Lucas per avercelo fatto scoprire. Un ascoltatore giovanissimo che però ha orecchio. E che orecchio! Sceglie sempre della musica straordinaria e gli ho detto se qualche volta vuole venire qui a scegliere della musica. Ci sta pensando. Spero che presto lo farà. Ben E. King. E adesso un carissimo amico mio e anche di Eric Clapton, J.J. Cale. Thank you. Grande J.J. Cale. Il suo amico, Eric Clapton, ha fatto un album che si chiama To Save a Child, dedicato ai bambini di casa. E il brano, l'album si chiama An Intimate Live Concert. E chiaramente lo ha pubblicato, prodotto da solo, perché la sua casa discografica faceva parte dell'altra parte. Ebbene, proprio in questo periodo, in questo momento, riprendere questo disco che si chiama To Save a Child, non so se è trovabile in giro, ma comunque i proventi erano per i bambini di casa. E il brano che ho scelto da questo bellissimo album si chiama... Vabbè, ci si emoziona perché è un tema che ci tocca tutti, per fortuna. Album meraviglioso che vi prego di andare a cercare di comprare. Si chiama To Save a Child, An Intimate Live Concert. The Sky is Crying. Anzi, vi chiedo ancora scusa per aver fatto entrare il brano in maniera un po' emozionale, ma... È un disco veramente bello, un concerto stupendo, loro suonano alla grande. Sono in forma e molto, molto motivati. Sky is crying. Look at the tears rolling down the streets. Sky is crying. Look at the tears rolling down the streets. Ce lo sta piangendo. È vero, Eric, grazie per questo album bellissimo dedicato ai bambini di casa. Un album bellissimo, se lo potete trovare, cercatelo, compratelo, perché è un disco straordinario. An Intimate Live Concert. Eric Clapton, Get the Blues. Straordinari, bellissimo, grandi, grandi. Beh, per noi è arrivato il momento di salutarci. Io raccolgo tutti i miei dischi, le mie carte e lascio lo spazio alla nostra programmazione. Ricordatevi di radiosamarcanda.it, ditelo ai vostri amici, spargete la voce. Beh, finire con Donald Fagan non è male, eh? Da un album che si chiama Morph the Cat, questa è la ripresa di un brano che dura pochi minuti. Giusto il tempo di dirvi ciao e di ringraziarvi per essere stati insieme. Non ho seguito un filo proprio logico durante la programmazione, ma a volte la mente è così. C'è dell'eclettismo, dell'incoerenza. L'importante è che siano sempre delle sorprese. Sorprese musicali, cose che non avete mai sentito o che vi ha fatto piacere riascoltare. Edith ritornerà presto ai vostri microfoni, ai nostri microfoni. Ci sono un sacco di cose da raccontarci, anche non a parole, anche solo attraverso la musica. La musica parla, parla e dice molte più cose di quelle che noi possiamo immaginare. E la musica ci unisce. Ma è una specie di sogno, Ho pensato che rimettendomi a fare la radio e trasmettendo della musica bella, qualcosa possa entrare nei nostri cuori e possa ridarci la voglia e la forza di reagire con gioia tutti insieme. E questa cosa non lo so come sta accadendo e io ne sono molto felice. Per cui grazie a tutti, a presto e continuate così. Restate con noi. Questo sarebbe il tuo finale? Vabbè, questo è il mio.